America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. My fellow Americans, we've traveled through more than a decade under the dark cloud of war. Yet here, in the pre-dawn darkness of Afghanistan, we can see the light of a new day on the horizon. Il presidente Obama, lo avete sentito ieri, vi riproponiamo oggi la sua voce, il suo discorso, il discorso che ha fatto dall'Afghanistan quando ha promesso agli americani che sarebbero usciti dall'oscurità delle nuvole che hanno tormentato il paese per un decennio. In realtà questo suo discorso non è stato preso necessariamente bene. Una critica, per esempio, del New York Times addirittura lo ha definito un'occasione perduta. But now there has been a complete backflip. Speaking to him, he says that he feels he's been let down by the United States. He says while he was in the embassy, he was not given the full story. He was cut off from the news and he was encouraged to leave. Ecco, nel momento in cui improvvisamente gli esteri, la politica estera sembra dominare su quella che è la campagna elettorale, nel momento in cui vediamo la vera potenza della presidenza americana, c'è un'altra notizia, un po' di imbarazzo in questo caso. Chen Guangcheng, il dissidente cinese cieco che si era rifugiato in ambasciata americana, è uscito dall'ambasciata. In un'intervista all'AP ha detto che è uscito perché le autorità cinesi gli avevano detto che avrebbero picchiato a morte la moglie. Gli americani smentiscono, dicono che c'è stato un accordo molto favorevole. Chen stesso dice sì, che in effetti lui potrà studiare. La verità è che Hillary Clinton è arrivata a Pechino, ci sono oggi in corso in questo momento degli incontri, gli incontri periodici ad altissimo livello, incontri strategici, e dunque alla fine in qualche modo la politica prevale. Today I'm suspending the campaign, but suspending the campaign does not mean suspending citizenship. Newt Gingrich, avrete riconosciuto la voce, sarà forse una delle ultime volte che l'ascolterete. Newt Gingrich ha detto che lascia ufficialmente, aveva anticipato la settimana scorsa questa sua uscita, e qui dice: oggi sospendo la mia campagna elettorale, questo non significa sospendere i miei doveri di cittadino, io e Callista continueremo ad essere cittadini impegnati, lo dobbiamo all'America, continueremo a lottare con tutti voi per far sì che il ventunesimo secolo sia il terzo secolo della libertà e dell'eccezionalismo americano. Ecco, il cerchio si chiude, libertà, eccezionalismo americano, ma l'America in qualche modo si piega, almeno secondo me, forse per opportunismo, a Pechino, cerca di uscire dalla guerra in Afghanistan. Il cerchio, dicevo, si chiude, questo è un anno elettorale, è difficile non dare un'interpretazione di politica interna e eventi di politica estera, è anche difficile ignorare che poi alla fine sono gli eventi di politica interna che prevalgono, cioè l'economia, per cui anche se oggi si parla meno di economia e più di politica estera, alla fine le elezioni si giocheranno su quello. Ho con me i microfoni di America 24 Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te Mario. Allora Maurizio, beh, intanto partiamo da Gingrich. Cosa ti viene in mente in questa giornata? È stato un addio segnato da grande orgoglio. Newt Gingrich oggi ha detto che ricorda con emozione la vittoria in South Carolina, quando anche noi eravamo lì. È l'orgoglio del vecchio conservatore, del leone che non sarà mai domato, e sostanzialmente lui ha mandato un messaggio a Romney dicendo: sì, mi arrendo di fronte alla logica dei numeri, ma non sono battuto e continuerò a essere lì presente per le mie idee, resto il baluardo dei conservatori. Insomma, non è stato il discorso di un leader sconfitto quello di Gingrich. Ecco, ma secondo te è un leader che resta leader o ormai è un leader, diciamo, archiviato, finito? Ma il vero interrogativo è come si comporteranno i delegati e quindi i leader conservatori alla convention. Ormai non ci sono perplessità sul fatto che sarà Romney a vincere, a ottenere la nomination. È chiaro che il partito repubblicano dovrà fare in qualche maniera quadrato attorno a lui, ma noi sappiamo, avendo seguito la campagna elettorale, che la pancia conservatrice del partito non ama Romney. Il dubbio quindi è come Romney incontrerà o recupererà i favori di questa parte dell'elettorato, se sarà solamente un'alleanza di necessità nel tentativo di battere Barack Obama, o se in qualche maniera Romney riuscirà a recuperare la passione dei conservatori. La risposta passa attraverso i comportamenti di due leader, Rick Santorum e Newt Gingrich. Sì, passa anche secondo me attraverso il comportamento di Marco Rubio e di Ryan, di Eric Cantor, insomma di leader del conservatorismo americano che però si sono schierati alla fine con Romney. Non lo so, secondo me sarà una battaglia aperta. Ecco, molti mi chiedono Maurizio, ma insomma Obama ce l'ha fatta, ecco, secondo me sarà una corsa piuttosto stretta, come la vedi? Secondo me sarà un testa a testa molto difficile per entrambi fino alla fine, perché i due candidati restano due candidati deboli. I sondaggi fotografano un 46% pari, anche quelli che danno avanti Obama lo danno di pochi voti. Gli scenari degli strateghi elettorali disegnano una sfida decisiva in 6, forse in 8 stati. Insomma, l'atmosfera non è quella di una vittoria valanga di Obama contro un avversario molto debole, come non è quello di un crollo del presidente in carica. Sarà una battaglia all'ultimo voto, segnata dal fatto che entrambi sono molto vulnerabili. Ecco, siamo nel pieno della campagna elettorale, ormai è partita, è difficile non pensare che Barack Obama non abbia dato un taglio elettorale a questo suo viaggio spettacolare in Afghanistan, però è tornato con una brutta sorpresa, e cioè l'editoriale del New York Times di ieri mattina ha dato un brutto voto a questo suo discorso, una cosa che da noi sembra impensabile, perché sappiamo che il New York Times, proprio con la pagina degli editoriali, è schierato al fianco di Barack Obama, eppure in qualche modo ha espresso qualche dubbio. L'editoriale del New York Times ripropone i dubbi della sinistra, del Partito Democratico e dei Liberal sulla gestione dell'Afghanistan da parte del Presidente. Fondamentalmente nel discorso pronunciato dalla base di Bagram, il Presidente Obama cosa ha detto? Ha detto la guerra sta finendo, lui voleva dire la guerra è finita, ma non poteva farlo per il motivo molto semplice che deve mantenere i soldati fino al 2014. Questo atteggiamento da un punto di vista degli opinionisti liberal è una contraddizione. Se vuoi porre fine alla guerra lo devi fare subito, non ha senso dichiarare di fatto di aver firmato con il governo afghano l'accordo sul passaggio delle consegne nel 2014, disegnando lo scenario del dopoguerra, quando invece di fronte abbiamo ancora 24 mesi di combattimenti con consistente numero di truppe sul campo. È una contraddizione vista da sinistra la scelta del discorso pronunciato da Obama e anche l'accelerazione diplomatica voluta dall'amministrazione per firmare adesso questo accordo con il governo afghano. Ecco Maurizio, però diciamo da un punto di vista dell'immagine, alla fine per lui è stato un buon colpo. Assolutamente sì, soprattutto perché il suo obiettivo è piacere a quel 60% di americani che ritengono necessario porre fine alla guerra in fretta. C'è però un piccolo intoppo, e cioè che proprio ieri il dissidente cinese Chen Guangcheng è stato mandato via. È uscito volontariamente, ha fatto un accordo con le autorità, comunque ha lasciato l'ambasciata americana. Secondo me c'è stato un cortocircuito nella trattativa fra cinesi e americani e il dissidente, è provata dal fatto che una volta uscito e lasciata l'ambasciata americana, lui ha detto che voleva lasciare la Cina, mentre invece i portavoce americani continuavano a ribadire che l'accordo fatto era con il consenso del dissidente sostanzialmente un trasferimento di residenza da una zona che lui riteneva per lui insicura a un'altra per lui e la sua famiglia. Ecco, però dal punto di vista elettorale alla fine io non posso non immaginare Mitt Romney che accumula video su questo episodio per poi attaccare Barack Obama come un presidente debole che davanti alla Cina si arrende. Sì, la mia impressione era che Obama avrebbe potuto giocare il braccio di ferro sul dissidente dentro l'ambasciata americana a Pechino in chiave anticinese, cioè tentando di raccogliere favori in quei larghi settori dell'elettorato americano che sono ostili alla Cina soprattutto per i contenziosi economici, addebitando alla Repubblica Popolare concorrenza sleale sui mercati. In realtà invece nell'amministrazione ha prevalso la realpolitik, cioè la necessità di avere la Cina come partner negli ultimi mesi dell'amministrazione su temi delicati come l'Iran e la Nord Corea. Io credo che negli ultimi mesi di questo mandato presidenziale vedremo proprio Obama stretto fra queste due necessità, cioè la realpolitik del presidente presidente in carica e invece quelli che sono i temi dell'agenda di politica interna. Un suo stretto collaboratore, Bruce Riedel, questa mattina ha detto: beh sì, il discorso di Bagram è stato la combinazione perfetta fra strategia di sicurezza nazionale e campagna elettorale, però sarà molto difficile per il presidente continuare su questa strada, perché le due necessità, le due strategie tendono a divergere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Con il suo primo disco solista, Blunderbuss, Jack White ha scalato la vetta della classifica degli album più venduti in America, 138.000 copie la prima settimana. Di Jack White, 16 Salt Time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.